faccio? Buonasera! Oh, ciao ciao, buonasera! Tony, lo c'è? Sì, c'è, già c'è! C'è un altro raggiamento e mi dicevo mi rispondia! Vedi, c'ho l'imbarazzo adesso che si era detto! E per cui sto vincendo adesso! Non potevo prima! Oh, è in acceso, vedi! C'è quasi mezz'ora di più! Così, ma anche ora di giornata ma non rispondi a nessuno. C'è un brucia, gente. No, io sono andato adesso, posso che avrei risposto. Adesso ho acceso, vedi, perché mi sono liberato adesso, stavo facendo delle cose. Andiamo, andiamo. Di dove? E chi è questo? Ah, ce l'ha tutti, hai fatto l'albero già, bello quell'albero, Proprio molto impegno ci ha messo a farlo. E vabbè, un segno lui. Io bambini piccoli non li ho, l'ho fatto per farmi avere un segno. Ah, tu vedi che c'è il figlio? Lo so, sto scherzando, ce l'ho uguale la mia principale, l'ho messo in negozio. Fai figlio. E così non sto a mettere palline tutti gli anni, ho preso quello lì e basta. E tanto per avere un segno. Poi addobbata, la porta, tutto qua. Una quarantina costa quello già. Sulla 35 mi pare l'avevo pagato. Va bene, va. Avanti, zo. Ma da voi? Andiamo, andiamo, dai, dai. Avanti, Gianmarie, buonasera. Buonasera a tutte e tre. No, gli alberi non li ho fatti. Perché apparecchiati che non li faccio? Almeno 5-6 anni. Una rottura è cazzo, piazzati, montati, non le ho fatto, che non le faccio, non le farò più, boh, e se vuoi fare, tu fatta la insomma. Sì, ma me l'hai costato un bel puro. E vedo poi, c'è la stessa notte che ce l'era, che hai pensato a parlare pure, l'abbiamo fatta io. Giovanni, io ho trovato una soluzione, l'ho comprato con la fibra ottica, si accendono tutte le luci, lo stesso si sta a mettere palline né niente, da poi li rubavo, rubavo dritto l'uscita del mobile senza toccarlo nemmeno. Già avevo accetti, già va bene lo stesso. Io ripeto, per gli apparecchiani che non li faccio perché una rottura è stata, è un macello, non ce n'è più voglia, per cui largo ai giovani, dai, già, tu e a te giovani ancora là, già te la senti, là. E beh, i nipotini non è che vengono a casa tua a prendersi i regali. I nipotini, allora quando siamo a casa non si apposta per quell'albero, perché vivo 3 giorni a piazzarla e da poi a smontarla. Ma ti risolvo di genere, adesso ripeto, vedo che fibra ottica, non devi mettere le palline né nulla, si illuminano le punte delle fughe, là. Si illuminano quelle, se non devi fare altro che prenderlo e rimettercelo dentro il cartone, boh, basta, fatto io. Ma lo sa quante ne ho in magazzino di quelle, anche di quelle statuette, di palline, di tutti i tipi, già. Ma allora, noi, cazzo, non le faccio più, noi. Tu non lo faccio, ma c'è qualche le cose sulla porta. Non ne ha avuto voglia. Io ci ho messo il cammino all'albero, boh, basta. Va bene lo stesso, là, cazzo. Di allora già la faccio, porta a me, lo stesso pianerotto, ma io non ho fatto niente. Non tengo fuori, forse domani qualcosa la metto fuori, dai. Appena, ma solo quello lì e basta, metterò. Per tappare gli occhi della gente che critica, così. E allora, noi, cazzo. Venga la gara, per carità, vai, e lui. Manca mamma, se va a venire un piccolino già pronto, vuole le luci attaccate, vuole piccolini sono. Perché abbasso questa cosa qua. E poi la vicina di casa ha attaccato un coso alla porta, li ha comprati uguali. E niente di che. E poi abbiamo messo tutte le luci fuori dall'anno scorso attaccate, ho attaccato il filo solo e basta. C'è questa ruota che gira già, tipo all'interno, no? la cosa è fatta di tipo lente e fa le luci, bello, bravo. Poi non si può mettere anche la musica perché è Bluetooth. Ah, è quelli che vendono i cinesi. Esatto. E ce l'ho anche io, quello che fa le stelline. Quando cantavo prima la mettevo, poi non l'ho più messo. Mi si è ballato, non l'ho più nemmeno toccato. Ascolto, ti volevo dire una cosa, mi volevo regalare un computer, però non accende. Cosa c'ha fusibile all'interno? Non lo so, di là. Oppure è portatile? No, no, stazione base. Ah, ma vabbè, poi c'è l'alimentatore già a cambiare. E l'alimentazione non accende proprio. Ah, ma vabbè. Ma con un po' più soldi lo sistemiamo. Vabbè. Se lo facciamo bene allora. Ma è buono? Sì, buono. Solo che non ha più acceso, da accendere non accendeva più. Già, bisogna vedere quanto tempo è fermo, se già installa il sistema operativo, boh. Vabbè, lo vediamo, guarda, avanti Tore, ripeto. No, è funzionante. Ok. Avanti Tore. Via. È così, è così. Tutto è così. Così fatto. Fa cosa, tra l'uomo già mi ha fatto il torcione, ne aveva uno, cazzo, non funzionava, allora ce l'ha buttato e ce l'ha comprato l'uomo, per l'ottavo. No, ma questo è di mio figlio, capito, se l'ha preso nuovo lui e mi ha detto se lo volevo, che non gli torno ad aggiustare, che sicuramente era una fesseria perché stava funzionando fino al giorno più, appena accende non accendeva più. E tu bisogna vedere se si è bruciata qualche cosa. E portarci sia l'alimentazione. Può essere anche l'alimentazione. Ma quelli non so se ce li hanno tutti, quelli non so, Ma no, ma Luca li apre, per quello glielo volevo chiedere se va qualche fusibile. Ah, no, già, la fusibile va. Non c'è qualche fusibile, va un computer. Quando si è bruciato l'alimentatore, portamelo già, poi vediamo, là. Dico più o meno la spesa, ma non è tanta la spesa, tranquillo. Però, ma da molto non lo stavo usando, da poco l'ha spento allora. Sì, da poco, lo stavo usando. E poi l'ha comprato nuovo perché non si accendeva e se l'ha voluto prendere nuovo direttamente, ma quello lì è buono, mi ha detto ce l'ho lui, te lo fai aggiustare, ci spenderai qualche fesseria, perché tu dovrebbe essere qualcosa da niente, e non lo so cosa usa. E io qui, da. In un alimentatore bisogna vedere già da quanti ampere è, non lo so, poi vedi, ci vedrà, dai, avanti Gio Mario. Guarda, io almeno sai cosa c'è, non so. Ci siamo a cazzata, oh, era il mercatore, non penso ci sia problemi, capito? Ah, beh, spero che sia l'alimentatore che non sia bruciato, ma aspetta, non accende proprio già, non dà schermata, no? Sono modi, allora, quando si dice non accende, non significa che, cioè, ti spiego, ma il case accende parte, non dà vidiazza magari, così è. No, non accende proprio. Infatti lui mi ha detto sicuramente dipende dall'alimentazione, perché non accende. Già, se io lo porto, ma domani io sono a casa, quando vuoi me lo porti così. Tanto io sono libero la mattina, dopo le 9. E te la posso controllare. E adesso vediamo, io non ce l'ho a casa, ce l'ho lì a casa ancora. Vabbè. Vabbè, lo prendo, me lo porti, non c'è problema. Portami solo il case e basta. Sì. Cavi, cavettini e monitor non me ne portare. Cavi ce li ha. Mouse, su tutto. Pronto, zitto. La conza. Se va bene così. Magari c'è un partito alimentatore e non ha senso. Ma costa poco quello. Ma il mercatore dovrebbe avere la scia. Ma di magazzino un naggio lui, il naggio di chi si alimentatore di computer. Ma un naggio lui. Ma bisogna avere il produttore da quanto sono, capito? E dove avere gli attacchi adatti. Pari sono quelli vecchi tuoi, non gli attacchi SATA. No, sono di computer nuovi erano. Ah, di computer nuovi io li ho messi giù in magazzino. Non ce ne rimanesse già qualcuno e cosa, di buon sentito. Però, no, di quelli sono... sono fatto un alimentatore per il baracchino. Poi vabbè, l'avevo levato, mi sono comprato quelli cinesi. Ma questo quelli nuovi cinesi, gli alimentatori, sono già con interruttore e tutto. No, allora. Internet. C'hanno l'interruttore, gli attacchi rosso e nero. Dove attacchi il filo stesso? Ah, ho capito, boh, non li ho visti, vabbè, io ce l'ho già, ne ho tre alimentatori, di cui quello cinese, uno con gli strumenti e poi un altro vecchio di quelli pesanti. Già ne ho voglia. Oh, comunque già, si è capotata l'antenna TV. E sopra c'è la VEU, che non sento più niente adesso. Ci sei capottata col vento dell'altro giorno di ieri. Beh, è broccato il tutto. No, la staff. Fatto forza. Come mai non le hanno curate bene? Messe lì nel canafumaria, la canafumaria vecchia, tanta pratica. Adesso vado un po' cosa fare. Sto pensando a prendere due staffe e metto le cemento. Se no li metti le cravatte. Poi adesso vediamo, va. Mi prendete, sono qua io. Che ha soffiato il vento ieri, c'era un bel vento. Qua a casa cazzo ha soffiato a forte. Io proprio sono ciammato. Sì, non solo il vento, ma la brenne dalla base di Monteoro, la Randriga. Fatta ogni acquazzone quando stavo tornando verso le 5. Oioioi. Sì, anche di notte ha fatto anche grandi e forte. Allora non l'ho sentita. Adesso ha gettato il bucato. Ma io sto cilattando la notte perché mi guardo internet e così sto cilattando fino alle 2, per me, capito? Ma no, allora ero già nel mondo del sole. Ciao Giovanni. Io già non sento proprio. Davvero, io già non sento proprio. Guarda, sono quelli che c'è peggio ancora. Intanto, non so che sono diventati io. Certo. Io gli apparecchi però, non me ne metto, mi danno fastidio. Mi metto solo quando vado a fare qualche visita, così è basta. Ma adesso casa non me ne metto. Per cui, c'è fuori, nemmeno il fuori senso io. Proprio sordo sei diventato Giovanni, non senti nulla. Allora, no, ragazzi, sono i orecchi, per carità. Ho preso questi apparecchi, sono fuori, cazzo. Che se faccio questa semina io, cazzo. No, ripeto, non me ne metto, me ne metto solo quando sto a fare qualche pista, perché devo sentire cosa c'è, cosa non c'è. Ma che cazzo, non me ne metto. Oppure quando vado a fare la stessa, non me ne metto nemmeno. Me ne metto poco e niente, capito? No, se sali da forse parlando già sento, dai. Ho capito. Magari c'hai anche cirugia, da pulire, c'è da pulire le orecchie, perché a volte ne pensi ammalate e magari la fessi lì. No, ce n'è cirugia già, non ce n'è, io sa quante volte sono andato tutti apposta a pulirvele e cirugia non ce n'è appena, basta, capito? No, siccome ha avuto notizie a sinistra, capito? E poi mi ha passato dall'altra parte poco a poco e anche nel senso mi ha rotto le gemelle cifali, capito? E anche il diabete mi fa vedere assolutamente, lo sai. Ah, fino a 2 anni fa c'è tipo bene, capito? Fino a 2 anni fa c'è tipo bene, però adesso ti sta dando più poco tempo. Vabbè, vuol dire che quando sento che me ne metterò di più, dai. Adesso già ci sono i rimedi, prima se lo sentivi non sentivi più. Adesso per esempio, al baracchino io gli ho le cuffie, se io mi metto le cuffie, se ti sento però non riesco a capire ciò che dici certe molte volte, capito? Detto, le cuffie riesco a capire perfettamente. Io per dire non potrei mettere quegli apparecchi perché mi metto le cuffie per cantare. E come fai? Io ho avuto l'ottice, cazzo, vabbè, mi ha rovinato lì a policlinico, cazzo, sono andato a pulirmelo e cazzo, ma toccato i timpani, cazzo, e sono stato fuori, cazzo, ho portato carica tutta la testa. E l'ho portato il servizio che gli ha fatto a, alla costa, a Parco Bianco, sono riuscito a darmi delle voci e mi ha guarito, però che fanno mangiato, capito? Ma ti è uscito sangue dall'orecchio? No, pulso, l'ultimo pulso usciva già, ma ha rovinato quello lì. E poi mi ha toccato, ma hanno detto lei che non mi ha detto, non mi ha dato una medicina che ha a mettere nulla. E anche la notte quando ci ho coricato mi c'erano questi dolori, sono andato a fare a Guardia Medica, la Guardia Medica mi ha dato lì a Palazzo Bianco e lì mi hanno fatto il trucco, capito? Cazzo, mi ha rovinato l'orecchio. C'era una bucata di tipa. Era russaria. In realtà non ci sono più andato alla policlinica, mai più andrò, perché quella lì mi ha rovinato il timpano. Anche mio padre è andato all'INAM, mi ha detto che non è andato nel ferro, detto, e gli hanno fatto male all'orecchio, che non ci tornava più. Perché gli hanno entrato questo ferro, gli hanno toccato il timpano, gli hanno fatto vedere le stelle. Infatti, ma quella è la stella che va... ma non ci ho fatto uscire il sangue perché ci si è gonfiato a me l'orecchio, non sentivo più nemmeno la testa che ha mai il senso che avevo, non riuscivo nemmeno a mangiare per un paio di mesi. E ci credo. Poi il mal d'orecchio è maledetto come il mal di testa. Invece il mal di testa è peggio, perché si prende tutta la testa. Cazzo, non mangi, non ti viene pure a mangiare perché ti fa male. No, la sabbia è passata per cui... Però a sentire non sente nulla. Però il cerume non si rompe perché ogni tanto vado e me le faccio pulire, capito? Sì, ma delicatezza proprio non ne hanno avuto, Deve essere anche abbastanzaggio, dici? Ok, dai, avanti tu. Ah, ma com'è? Io però sono andato su... Ma sfidato, mi hanno cavato il cerume che c'avevo. Ma non da papà il cerume. E adesso sono libero e ci sento benissimo. E dove sei andato tu? Su al Conti. Sono salito su al Conti. 10 minuti ha fatto il duccio. Ma sfidato però. Certo. Ma dal cupo sei andato? Sì, tramite il cupo mi ha preso l'altro appuntamento. E luglio sono andato. Era 3 mesi che la sentendo. E vabbè, interessante, ti ragioni infatti sempre. Ah, ma so come si... Certo. Ma mi pulite, beh. Sì. A me una volta che me l'hanno pulita mi sembrava sentire tutto amplificato. Vedi, mira, se siamo già che si dà fuori. Certo, il sentito le ruote della macchina. Voglio che facciamo amplificare ora, vicino. Sì, ti fa quell'effetto, perché prima non sentivi come dovevi sentire, poi quando ti libera senti come devi sentire veramente, capito? Infatti è così. In tre mesi, coso, mi sono abbassato un bel... e si dovevano avvicinare per sentire io. Poi gli hanno liberati, certo, tutta la loro intendia. Ho già, e lì mi dico, ma se adesso io gli ho fatto bianco, c'hanno l'apparecchio, con la televisione, quando ti entrano questo ferro a pista, vedono tutto fino a fondo di timpani, tutto vedono, se è sporco, se è pulito, tutto vedono. Cazzo, solamente te l'hanno fatto vedere e non senti niente più. Ma vedi davanti c'è la televisione e vedi tutto ciò che c'è dentro. E là è un monitor, è un monitor con la sonda, con la telecamerina. Cazzo, è una cosa molto buona, Se c'è il cerume, se non ce n'è. E quando è pulita si vede chiaro il sonno. Ultimamente me l'hanno fatto lì a Palazzo Bianco. E allo Torino l'ha ingoiato. E allo Torino. No, io grazie a Dio già ci sento bene a tutti i Io prima andavo tutti gli anni al policlinico a Filippo, tutti gli anni. E l'ultimo anno mi ha rovinato l'orecchio con... e non ci sono più andato lì, per carità. Allora preferisco aspettare, quando mi tocca vado a faccio bianco. E magari ha cambiato mano, ha cambiato lo suo io. No. Cacciare sono bravi, perché lì allora, a qua al corso sono andato una volta e mi hanno preso è benissimo. Cacca, anche alla Lina. Però questa qua, per carità, mamma mia, me l'aveva mangiata, se l'aveva ciappata, guarda. E la grazia di dire fatti, papà. Ha rovinato l'orecchio, cacca. Cacca, 2 mesi ero più già, 2 mesi, cacca. Ecco che ero bravo, cacca. E ti credo, è una cosa dolorosissima. È come dolore che c'ho io alla gamba, mi sta tu. Mi viene fortissimo, ce l'ho sempre fisso, ma quando mi viene forte, devo prendere subito l'antidolorifico, se no non passa. Ma direi che è brutto, E lì c'è peggio ancora, questo è peggio ancora, mamma mia. Però male, grazie a Dio, sto tranquillo, dai. Sentire, sento poca inguaglienza all'orecchio sinistro, all'altro un po' già sento. Parecchio ne ho, non so. No, due ce li ho. No, sono regolati, se li regolo apposta, capito? Se li regolo al regolamento come uno e l'altro, capito? E senti perfettamente. Ma se li beggi, un'amica mia l'ha preso quello mini e ha perso l'apparecchio. L'aveva pagato più di 1000 euro. Io ce l'ho solo a mattina, ce l'ho delle mattine piccoline. E tu anche 7-8 giorni dura, l'ho capito. Per cui, ma io non li faccio consumare mai completamente, capito? Stanno consumando poco a poco, c'è un campanello e le cose cambiate il subito, capito? Allora va bene. Ma come c'è la batteria o accumulato? È una batteria piccolina solo. Sono batterie buone quelle lì però, Sono piccoline, faccio un chicco di grano. Per quanto durano queste batterie? Però devo fare parecchio. Costano quelle batterie, però sono buonissime già. Ma sai che buio. Se ti si scarica la batteria quando ti serve per sentire un casino. Devi portare sempre a presto. Prima me l'avevo offerto da internet, dall'Austria, e lo faccio arrivare. E quelli si caricano col computer, oppure con un caricamattina del telefono. Ma quelli lì non me li metto perché sono più grandezza appena. Mentre questi che ho comprato sono piccolini, capito? Non si vede nemmeno quasi, si vede solo il pezzo della cosa, capito? Ma appena si vede. Io Giovanni, l'altro giorno me ne ho fatto uscire giù. Ho aggiustato il nasello di un occhiale che praticamente ho perso la vista, no? E avevo gli stessi occhiali, però che c'erano rovinate le stecche e roba del genere, però il nasello ce l'avevo, ho aggiustato il nasello da una parte e l'ho messo nell'altra, ma pulizzi chissà vite fina, piccolina. Ma sai cosa ho fatto alla fine? Mi sono rotto le scatole, ho preso un po' di colla, l'ho messa nella punta del cacciavite, l'ho incollata e poi l'ho dato il passo io col cacciavite e dopo l'ho già vittata, ha fatto un yugo. Stavo impazzendo, me ne cadeva sempre, mi è caduto in terra, se non lo stavo per non trovare un casino. Ma questo non so come fanno, si guarda la gestione, e c'è tutto un pezzo mi sembra. Se c'è uno sportellino tondo bene della batteria e basta, è un macello, però per il tuo deve essere sempre ben pulito, c'ho le salviette, c'ho un puntino, perché quando va dentro se c'è il cerume magari si attacca un po' di cerume e allora non si fa sentire, capite? L'orecchio deve essere sempre pulito e mi pulisco anche le orecchie e me le controllo sempre, per cui quando me le metto sono sempre lucidi come quando sono nuove. Io da poco in farmacia sono entrato a studiare medicina e c'era questo signore, mi ha detto se ne interessa stiamo facendo la prova di udito. Ha detto quando si paga no è gratis, sì, certo che mi interessa, l'ho fatta. Un orecchio è perfetto, l'altro appena appena gli acuti più bassi sento, ma di poco. Ma quando è mangiato a me me l'ha combinata perché c'aveva l'ustile, cazzo. Sto sentendo, il polso usciva a gran carriera, io mi mettevo sul cuscino quando mi coricavo, mettevo sotto un telo proprio per era sporcavo, perché ne usciva sempre, non bastava pulire, usciva sempre già, lo sa che mettiamo queste gocce, il pattino, eccetera, capito? E finché non sono stato guarito, questo però è vuoto, il tipo è mezzo mangiato, capito? Ti preoccupa quando è così perché sta andando male la storia se c'è gusto? Purtroppo. Ok, è un po' lunga, io dormendo. Io sono stato 5 anni con un'ulcera sotto al piede che sembrava un vulcano, non si voleva chiudere. Oh, Giovanni! Mi sa che adesso mi vado a prendere le pastiglie. Ah, ci risentiamo alle prossime, che mi vedo i bastigli. Poi ci risentiamo. Ok, ciao a tutti. Ciao Luca, se ci sei. Ciao Gianni, ciao Gianmaria, statemi bene. Ok, a risentirci alle prossime. Ciao, ciao Tony, ci sentiamo. Ciao Tony. Buon proseguimento. Tu ti faccio un problema, ho le antiche, tranquillo, dai. Ehi, sono almeno qua, Luca. Tanta. E anch'io chiedo già, dai. Anch'io devo fare insulina alle 8. E per cui prima prendo la pastiglia, dopo faccio l'insulina. Ci sentiamo già, dai. Grazie, una chiacchierata, buon proseguimento. Ciao, ciao, grazie, aggiustato anche a te, dai. E buona serata, buona continuazione. Ciao, ciao. Ok, chiedo. Ciao, anche a Luca, a te.